America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Las Vegas. Mario Platero, sono qui, in questa città conosciuta come la città del peccato, per seguire in realtà una delle più importanti fiere al mondo dei prodotti elettronici al consumo, anzi la più importante. Si chiama Consumer Electronic Show, infatti, perché è uno spettacolo, è davvero uno spettacolo, e sono, devo dire, davvero in un ambiente un po' surreale, perché al di là dei prodotti che sono straordinari, di cui adesso poi vi racconterò, questo convegno si tiene al Venetian, che è un complesso alberghiero che riproduce su scala Venezia, qui in mezzo al deserto, e c'è tutto, c'è il campanile di San Marco, c'è la piazza San Marco, naturalmente il Palazzo dei Doggi, però devo dire la cosa più inquietante è una specie di canal grande con gondole che ondeggiano così dolcemente lungo questo canale, proprio come a Venezia, ecco, sono gondole anche loro su scala, sono un po' più piccole, e c'è poi un gondoliere che canta canzoni italiane con fare tenorile. Ma il vero incubo è che tutto è al chiuso, però fanno finta che sia all'aperto. Il soffitto in sostanza è di cemento, però hanno dipinto un cielo azzurro illuminato con queste nuvole bianche da canaletto, come se fosse un tramonto permanente, e quindi poi sotto invece le gondole, i palazzetti stile veneziani, i ponti, sono tutti immersi in questa luce surreale di prima sera, insomma una luce incongruente. E devo dire che, insomma, visto che qui c'è il più grande spettacolo tecnologico del mondo, come vi ho detto, migliaia e migliaia di espositori, 150.000 partecipanti, iscritti, visitatori che vengono da 150 paesi, quindi varia umanità da ogni angolo del mondo, anzi scusate, partiamo subito con il nostro esperimento occasionale di social radio, per cui twittate, chiedetemi notizie, news, fate commenti, datemi consigli, perché ne ho bisogno naturalmente, e quindi vediamo di cominciare a fare questo esperimento di social radio. Comunque dicevo che con tanto ben di Dio di high tech, forse al Venetian, dove oltre a centinaia di tavoli da gioco che si perdono all'orizzonte ci sono 30 ristoranti, forse potevano impegnarsi un po' di più, almeno sulle luci. To help meet the challenges of our time, I'm proud to announce my choice for two key members of my national security team. Chuck Hagel, for Secretary of Defense, and John Brennan, for Director of the Central Intelligence Agency. Se qui a Las Vegas si parla di high tech, la storia va avanti, non si ferma. Washington ieri, Barack Obama ha deciso, Chuck Hagel, ex senatore del Nebraska, ex veterano del Vietnam, al Pentagono, John Brennan alla CIA, due nomine molto mirate, però una, devo dire, quella di Hagel, molto controversa, ci sono state reazioni negative da parte di senatori repubblicani. Chuck Hagel era un senatore repubblicano, come vi ho detto, del Nebraska, ma non ha mai legato con i suoi colleghi, perché è stato su una posizione sempre molto morbida sull'Iran e molto dura su Israele. Sul piano politico credo che il presidente sia pronto a dare battaglia, forse vuole tenere alto il filo della tensione con i repubblicani in vista delle prossime sfide molto difficili sul fronte del tetto sul debito, dei tagli alla spesa, che da qui ai prossimi due mesi si faranno bollenti. Però ci sono, insomma, delle indicazioni chiare per la sicurezza americana e per la gestione della CIA. La sfida prevalente resta quella del terrorismo. Brennan è l'uomo giusto, è già consigliere speciale del presidente sull'antiterrorismo, il numero due del Consiglio per la sicurezza nazionale, esperto in materia, soprattutto è molto vicino a Obama, come vicino a Obama è anche Chuck Hagel. Obama tra l'altro aveva nominato un repubblicano anche alla sua prima nomina al Pentagono, Bob Gates, forse alcuni di voi lo ricorderete. Il secondo significato politico, però, secondo me, è che Obama forse vuole dirci che in questo secondo mandato non ha voluto e non vuole personaggi autonomi come la Clinton, che possono dibattere con credibilità e forza alcune delle sue scelte. E aggiungerei, oltre alla nomina di Chuck Hagel e quella di Brennan, anche quella di John Kerry al Dipartimento di Stato. Di nuovo, Kerry è molto molto vicino al presidente, non si sognerebbe mai di andare contro corrente, e questo preoccupa soprattutto per la scelta di Hagel, perché di fatto il presidente ci conferma di essere disposto ad andare avanti a un dialogo difficile con Israele anche nei prossimi 4 anni. Vedremo se le audizioni cambieranno quella che per ora resta una percezione dominante a Washington, quella cioè di un muro contro muro su questo piano politico e in questo caso su questioni piuttosto delicate, perché insomma Israele resta il più importante e il più fedele alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ci sono state poi altre notizie sul fronte finanziario, per esempio dal punto di vista delle regole si è deciso di essere un po' più teneri con le banche americane, ma sono cose piuttosto tecniche. Direi di tornare per ora qui a Las Vegas. Questo rumore che avete sentito appartiene al serpente meccanico Titano Boa. È un serpente meccanico, titano, enorme, boa ovviamente sempre da serpente, che è stato realizzato da degli artisti, da Charlie Brinson, Jonathan Fail, Hugh Patterson, Michelle LaHaye, Marcus Hager, James Simar, Julian Fong. Ecco, sono artisti che si sono alleati degli esperti di alta tecnologia, di robotica e di intelligenza artificiale e hanno costruito questo robot che ha debuttato proprio qui in queste surreali sale veneziane del Venetian. E tra l'altro lo stanno costruendo dal 2011, quindi è stato un progetto piuttosto impegnativo. Cosa vuol dire questo progetto? Arte e ambiente. È stato promosso da Lenovo, che è il produttore di computer cinesi ex IBM, ed è un serpente leggendario questo Titano Boa. Esisteva 60 milioni di anni fa, quando la temperatura terrestre era, diciamo, di 10 gradi, 8-10 gradi più elevata rispetto a quella di oggi. Del resto basta atterrare qui a Las Vegas per rendersi conto dell'impatto estremo dei cambiamenti climatici nei milioni di anni che ci hanno preceduto. Si arriva nel deserto, ma è un deserto fatto di canyon, di ex letti di fiume, di aridità dove una volta c'era chiaramente il mare. Ma c'è un collegamento tra questo serpente, tra questa intelligenza artificiale e molti altri prodotti che sono qui a questa edizione del 2013 del Consumer Electronic Show, perché la robotica sta dominando, devo dire, e robotica di ogni genere applicata soprattutto alle automobili. Sia Toyota che Audi hanno rivelato a sorpresa la macchina che guida da sola, e di fatto una macchina robot. Questa macchina ha una specie di radar sul soffitto, è completamente automatizzata, basta inserire l'indirizzo finale e quella parte. Tra l'altro il progetto di Toyota, di Audi è in collaborazione con Google, vi dicevo, quella parte e rispetta semafori, gli stop, strisce pedonali, passanti, biciclette. E la dimostrazione che ho visto, prima in video e poi nella realtà, devo dire, è davvero impressionante. Però qui stiamo parlando di futuro lontano, vogliamo stare più vicini a noi. Una delle novità è rappresentata dall'applicazione di smartphone all'auto. Spiego: siete appena atterrati in una giornata freddissima, ecco, con un'applicazione telefonica montata sulla macchina potete chiamare l'auto e far accendere il motore e il riscaldamento senza che si aprano le porte. Tra l'altro, parentesi nella parentesi, non c'è Apple, non c'è Microsoft in questo show. E da sempre si sono tenute in disparte, fanno i loro show, però posso garantirvi che dal punto di vista della concorrenza, vedere quello che gira qui a Las Vegas, non credo che ci siano problemi di dominio assoluto. Ecco, vi dicevo, con la macchina, quando arrivate, la macchina è già calda e già pronta. Rapidamente su altre cose: schermi ultrapiatti della Samsung, che ha uno degli stand più incredibili, tra l'altro, di tutta la fiera. È un nuovo schermo da 85 pollici, un altro da 110 pollici, sono schermi enormi, da super super alta definizione, e devo dire si resta strabiliati. Lo stesso vale per LG, che presenta un modello con riconoscimento a voce, non avete bisogno del comando, basta chiedere. Poi ci sono giochi, software, ci sono questi nuovi telefonini con gli schermi flessibili che si piegano. Tornando al consumo, macchine fotografiche, la regina e la nuova Fuji, design retro ma immagini imbattibili. Infine, per chiudere, una forchetta intelligente che è capace, pensate, di registrare la velocità e il numero di volte che arriva alla bocca e di segnalare con un piccolo impianto luminoso chi la usa che sta mangiando troppo velocemente e dunque rallenta. Slow food anche nel high tech di Las Vegas. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, ecco, twittate, fatemi sapere cosa pensate di questo show, di questo consumer show. Scriveteci su Facebook, twittate su @ Mario Platero ovviamente. Eccoci alla canzone del giorno. A Las Vegas non c'era solo tecnologia, c'è stata anche musica. ieri sera alla conferenza stampa della D di Qualcomm, Paul Jacobs, si è esibito qui al Venetian il gruppo dei Maroon 5, uno dei più celebri, milioni di dischi, 45 milioni di dischi venduti, platinum, primi di ogni genere, e dunque a loro dedichiamo la canzone qui da Las Vegas dei Maroon 5, One More Night. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Da Las Vegas è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!